Davanti al tuo sorriso ho chiesto solo aiuto e non so chi sei. Ti ho vista parcheggiare, condannata dalla fretta e non so chi sei. Sono giorni che penso di essere diverso. Sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te. In mezzo al mondo io e te. In mezzo al mondo due storie forti, la rabbia e il tempo. Io senza sapere chi sei, so che mi contaminerei. Io senza sapere chi sei. La voglia come sa parlare, la voglia come sa aspettare. Tu non sai che cosa ho in testa, io non so tu come scrivi, io non so chi sei. Ho cambiato stazione perché c'è una canzone, non sopporto sentire cantare la virilità. Ho capito cos'eri davanti al tuo portone. Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te. In mezzo al mondo io e te. In mezzo al mondo due storie forti, la rabbia e il tempo. E io senza senza sapere chi sei. Ciao.